Graziella, 14, primo settembre, ore Ore 15. 15. Senti, Graziella, io la prima cosa che ti vorrei domandare è questa, prima di andare avanti con la nostra cronologia. È un po' chiederti se in queste settimane in cui non ci siamo viste, ti è capitato di ripensare ai 2 giorni, ai 3 giorni passati insieme a fare le interviste, se in qualche modo, come dire, nel tempo trascorso ci hai ripensato a qualcosa, cosa hai sentito e provato, qual è stata anche l'emozione legata, diciamo, la sonorità emotiva legata a raccontare di sé, se ce n'è stata una, e qual è stata, insomma. Pressoché no, cioè nel senso che c'ho avuto un'altra vicenda di questo periodo che un po' ha abbastanza travolto tutto. E quindi no, non so se l'ho rimosso, ma neanche. Cioè l'ho vissuto in maniera tranquilla, anche perché era un inizio, poi ora andiamo avanti. Però sinceramente non particolari emozioni. Cioè, sono contenta, ecco, di aver raccontato, ma non ci do ancora una valutazione. No, no, va Ho bene. risposto? Sì, certo. No, era appunto per andare sul. Sì, ma anche perché sono stata, forse da quel periodo, ero abbastanza abituata poi ad avere interviste. Infatti abbiamo finito con un'intervista. Certo. E quello sono stati quei 4-5 anni dove poi ho dovuto misurarmi costantemente con le interviste e imparare a dominarmi rispetto alle emozioni correlate alle interviste, cioè in qualche maniera cioè rilasciare delle interviste che avessero uno scopo che però non ero io, con uno scopo politico. Ma lo scopo invece di quello che stiamo facendo, te ci hai Non l'ho ancora ripensato? definito perché non so bene dove voi poi. No, ma al di là di noi, diciamo che sicuramente è colpa nostra, siamo partite noi, ma a te così te ne è venuto in mente qualcuno, c'è qualcosa che ti sembra su cui boh, hai pensato, riflettuto relativamente proprio a quello che stiamo facendo, quello che stai facendo te? Cioè io mi rendo conto che boh, forse avrei de delle cose da dire. Però è come se anche le avessi un po' dette, capito? Cioè sono in una fase della mia vita dove non è che ho particolari necessità di esprimermi, ce l'ho avuta nel passato, sì, avevo questo bisogno di concretizzare delle cose, ma è un po' come se io fossi un po' in pace con me stessa, cioè quello che nella vita ho fatto è qualcosa che io mi rendo conto che rimane, questo a prescindere che mi venga o meno attribuito. Cioè, so che, non so, è una bella sensazione, vorrei dire. Forse ce l'abbiamo tutti, non ho idea. Però nel momento in cui ripenso un po' alla mia vita, dico, ma guarda come sono stata fortunata. Alla fine ho fatto quello che volevo, che non è che è chissà che cosa, ma è come se nell'insieme del mondo avessi messo un po' della mia impronta. E questo, cioè, questo a prescindere anche da questa intervista, ma credo che questa intervista voglia un po' andare in quel senso, ecco. Quindi in questo senso mi piace, no? Cioè, anche per me, alla fine, per me perché ho questa sensazione, ma non è una sensazione elaborata, è una sensazione di cui ho relativamente bisogno di elaborazione, perché comunque ce l'ho, cioè, la posseggo, quindi. È un po' come dire, oh, mi fanno un ritratto così dopo mi vedo. Beh, ok, ma non è che è perché ho bisogno che questo ritratto mi dica, io sono contenta di me, di quella che è stata la mia vita. E magari se qualcuno mi fa un ritratto vedo delle altre cose, ma non vedo un po' come mi vede quell'altro, ecco, sostanzialmente. Però tutto parte anche dal fatto che probabilmente è la prima volta che io questa intervista la faccio con delle persone di cui mi fido totalmente, con cui non ho bisogno, non sento la necessità di vederci la finalità. Mentre quello che dicevo prima è che quella fase dove prima parlavamo, l'ultimo colloquio che abbiamo avuto, di una delle prime interviste che ho avuto. Sì, certo, Parlavamo proprio di quella e da lì. in poi per me il concetto di intervista è stato qualcosa di ben specifico, Serviva ma la anche fino persona. alle ultime, eh. Cioè dove ogni volta io ho deciso cosa volevo che emergesse in quel contesto. Questa volta no, è l'unica volta in cui io non mi sento né in dovere e neanche in diritto di definire io, cioè o mi presto a questa cosa, ma non c'è una finalità per me. Cioè, boh, vabbè, un po' come un gioco. Sì, certo. E questo è anche, boh, è un approccio estremamente diverso. Quindi voi la chiamate intervista, va bene, chiamiamola intervista, però Grazie, sei abituata a interviste più politiche, diciamo. interviste Sì. più con una utilità, cioè con una scelta di dire sì, accetto di farla perché così serve a questo oppure a quest'altro, oppure a quest'altro ancora. E tra l'altro in quel periodo anche con la difficoltà. Cioè, di sapere che da me avrebbero voluto qualcos'altro, ma che io non volevo dargli quello, c'è cioè la storia personale, tutte queste cose qua, e quindi per me c'è sempre stata questa necessità di spostare il piano costantemente. E se tu vuoi spostare il piano in un'intervista costantemente, lo devi proprio fare secondo per secondo, anche sul tono di voce, anche sulle incertezze. Ho un po' imparato a recitare. Sostanzialmente, perché di quello si trattava queste interviste, un po' di una recita, dove in una recita ci metti te stessa, però è una recita, cioè, rappresenti un personaggio e forse la cosa che nasce nell'88 è un personaggio che durerà per quei 5, 6, 5 anni, 6 anni, è un personaggio che dura dall'88 al 94, al 94 decido di spogliarmi di quel personaggio Ma ti è piaciuto quel sostanzialmente. personaggio? Com'è? Ti è piaciuto quel personaggio, quella personaggia? A parte che era molto diverso da me, neanche poi tanto, era quello che serviva. Cioè, non lo so gli altri come mi vedessero, no, a volte proprio non mi piace per nulla, ero stronza. Cioè, dovendo reggere questa cosa, boh, io mi fossi conosciuta allora, credo che non mi sarei piaciuta. Chi mi ha conosciuta allora ha sempre avuto abbastanza da ridire su di me, Ma perché? Quali erano gli aspetti? che non ero, cioè, non ero mai davvero sincera, non ero trasparente. Poi magari riuscivo anche ad apparire trasparente, ma non lo ero. Ma no perché avessi qualcosa da. Perché da un lato rappresentavo una persona che si spogliava. Dall'altra parte sì, mi spogliavo di un abito per mostrare un altro, però non è che rimanessi nuda. Io non sono mai rimasta nuda durante un'intervista, anche quando magari mi trovavo in interviste difficili, dove in qualche maniera dovevo reagire, secondo me quella tipica da questo punto di vista è l'intervista, che poi non era un'intervista, ma era il talk show, dove in realtà non mi hanno mai data spazio. Durante la trasmissione di Gad Lerner nel 92 sull'omosessualità il 28 giugno, una trasmissione in prima serata Rai dove avevano trovato anche la lesbica da piazzare davanti a fare davvero il fiore all'occhiello e dove me ne accorsi quasi subito e dove stetti a pensare per un'ora e mezza come cazzo esco da questa situazione senza fare la figura della cogliona? E io per un'ora e mezza mi concentrai su quello e alla fine trovai la via di farla matta, cioè di farla matta, di far quella che si incazza di brutto, cosa che non è nelle mie corde, fra l'altro, di incazzarsi di brutto. E un po' alla volta ho imparato anche a, non so se ho sviluppato, non è neanche una doppia personalità, però credo che anche questo abbia contribuito a fare di me quello che poi sono, perché poi alla fine. Diventi anche quella cosa, non è che tu puoi per anni recitare una parte e pensare che non tocca assolutamente quello che sei, ti cambia, ti modifica, ma è quello che mi è successo è che poi quello che viene letto di me molto spesso ed è reale è che sono una persona contraddittoria, perché a volte sono tutto, ma anche il contrario di tutto. A volte sono quella che sembra trasparente, ma poi non lo è, perché dopo magari, cioè. E questo credo che sia quello che si diventa. Nessuno nasce così. Io però sono diventata, non credo una persona doppia, perché non mi ritengo doppia. Non non credo neanche una persona bugiarda, perché non so proprio raccontare balle, quindi alla fine, cioè, non è che dico, non ho mai detto cose che non penso, però tu puoi dire la stessa cosa in 100.000 modi diversi, e come tu dici una cosa che pensi, è quello che ti caratterizza poi, no? Quindi io ho avuto tutta una prima fase anche della mia vita politica LGBTQ+, come si chiama ora, in cui ero, cioè, ero democristiana. Alla fine ero quella che riusciva a mediare con Grillini, era quella che riusciva a tenere dentro magari le componenti più di sinistra, eccetera. Ero veneta, proveniente comunque da un substrato cattolico, con quell'ipocrisia che comunque fa parte non solo dell'essere, ma della modalità, quindi io non credo di essere mai stata ipocrita, ma spesso ho modalità, quello che qualcuno dice, che sono aggressivo, come si dice? Passiva-aggressiva. Passiva-aggressiva, cioè che è quella cosa lì, cioè quindi non voglio proprio dire che mi incazzo, e quando mi incazzo proprio perché ho deciso di incazzarmi, questo poi per esempio l'ho applicato sul lavoro tantissimo. Io ho sempre fatto il lavoro di DSGA, che al tempo era segretaria, ma che nel tempo comportava comunque la cosa che mi pesava di più in assoluto, dover gestire il personale, in particolare i bidelli, che facevano un lavoro che io non so fare, cioè le pulizie. E quindi, per come sono io, mi avrebbero raggirata chissà quanto, no? Quindi io ogni tanto mi incazzavo sul lavoro. Ma decidevo quando, non era vero che io perdevo le staffe, però gli facevo l'urlata e quindi sapevano che ero in grado di farla. Era una finta, però loro non capivano che era una finta. E questo, cioè, poi credo che in tutte le mie relazioni tante volte sono stata così, e a volte andavo in crisi io stessa perché non sapevo se credermi o no. Questo, cioè, non è che mi ha aiutato questa avventura che è iniziata allora nell'RCA, nel dovermi rapportare comunque a un mondo esterno, alla stampa, a questo discorso delle interviste, perché ne parliamo, perché tu sei partita da come vivo questa intervista. Certo, Non la sto assolutamente vivendo come come vivevo le vive. interviste. E quindi, boh, non saprei No, neanche no, vabbè, rispondere, ma va benissimo, no, senso, hai detto un sacco no? Ecco, di mi cose. chiedo perché sennò No, mi ma infatti, vabbè. perdo. Senti, quindi ripartiamo appunto dall'88, articolo su di epoca, abbiamo un po', credo, anche parlato del fatto che a scuola questo non ha comportato problemi, e quindi siamo qua, siamo Sì. all'88, come si va avanti? Tu hai detto, hai addirittura periodizzato, hai detto si è aperta una fase, è durata fino al 94, Sì, dicevi. E che cioè, ora fase? se, parlando di interviste, ho pensato a quello, no? Certo. Non è che dall'88 al 94 la mia vita sia stata intervista, e No, quindi, ma però è stata diventare però, personaggio pubblico. esatto, quindi io direi quello che quell'intervista ha rappresentato un po' quella svolta. Fra l'altro, l'immagine che ho dato, che tu prima mi hai chiesto, ma ti piacevi? Io ho detto no, io non mi piacevo, però piaceva agli altri. Questo è vero, questo io ne sono stata consapevole, cosa poteva piacere, a chi poteva piacere, a chi volevo piacesse e perché volevo piacesse. Cioè, io il motivo per cui avevo cominciato questa cosa, quella vero, io credo davvero, era, e questo onestamente, era che volevo cambiare il mondo per le lesbiche come me. Perché io quello pensavo di voler cambiare. Invidiavo un po' i gay che avevano una visibilità che gli permetteva comunque di viversi, mentre, non so se ne ho già parlato l'altra volta, il mio primo approccio con l'arci gay è stato a Verona, l'approccio con il disagio, e il disagio è quello che ha caratterizzato anche, sì, ho parlato del Nicaragua, eccetera, quello era come facevo i conti con me, con me stessa, e quindi come mi ponevo poi io di fronte alle cose. Ma nel momento in cui tu dici io voglio intervenire nella società, devi vedere non solo te stessa, io vedevo anche il resto, e quello fu un luogo, un punto di vista, cioè che mi fece vedere delle cose molto pesanti qua, in particolare era il periodo dell'AIDS, e quindi mi trovai a misurarmi con gente che moriva, con gente che stava male, con gente che spariva soprattutto, che spariva dalle conoscenze, gente che vedevi magari nei luoghi, improvvisamente non li vedevi più, poi venivi a sapere che era in ospedale, che più nessuno li aveva visti perché i genitori li avevano reclusi in casa, e poi forse veniva a sapere che erano morti, oppure magari veniva a saperlo dopo 6 mesi che erano morti. Quindi, e questo sicuramente mi dette una grossa spinta. Io credo di avere già parlato prima dell'AIDS, perché forse è venuto prima o dopo, no, secondo me è stato dopo, perché deve essere stato l'89, esatto, perché a quel punto appunto c'era un po' questo aspetto. L'altro motivo invece di disagio grosso che mi veniva addosso erano le lesbiche in una città come Verona, una provincia, venivano da Trento, eccetera, appena hanno sentito che c'era qualcosa. Quindi quell'articolo su Epoca con il numero grande sul giornale, eccetera, fece sì che chiamassero da tutta Italia. Ma chi è che chiamava da tutta Italia? Non certo chi aveva accesso comunque a delle conoscenze. Chiamava tantissime donne, magari più grandi di me, sui 40 anni, io all'epoca avevo 38-34 anni, donne di 40-45 anni, donne che poi si sono uccise, donne che stavano male, cioè era un disagio molto diverso da quello di gay, quindi quello mi rendevo conto non è che potessi dare le stesse risposte, e difatti non a caso noi si faceva le riunioni dell'Arci Gay Donna. E queste... Perché scusami, ricordami un attimo, perché sennò sì. Nell'88, dal punto di vista, diciamo, dei ruoli riconosciuti dentro Arci Gay era solo Arci Gay ancora, giusto? Era Arci Gay, sì. E tu avevi nell'88 avevi un ruolo oppure no? No, no. Cioè all'inizio nessuno. Dopo l'intervista di Epoca, che era nell'88, no, nessuno. E non mi ricordo bene in che anno, se a fine 88 o inizio 89. Mm-hmm. Entrai, secondo me inizio 89, entrai nella segreteria nazionale dell'Arci Gay, che era composta di una quindicina di persone, okay. Tutti uomini ovviamente. Però secondo me quello successo tutto nel giro di un anno. Mm-hmm. Noi l'altra volta abbiamo chiuso con l'88 l'intervista a Epoca, che in qualche maniera a quel punto non avevo più problemi, a scuola lo sapevano. Cioè questa è stata una grossa liberazione per me, è stata un po' casuale se vuoi, però mi dette uno strumento che nessun altro aveva in quel momento, che io mi potevo anche permettere di andare in televisione mantenendo un lavoro. Qualcuno fu in quell'epoca che mi raccontò della Maria Silvia Spolato, quindi era un po' quel sottotraccia, no? Perché ci mise un po' a capire. Secondo me me lo raccontò dopo, nel 90, io credo di ricordare, a raccontarmi la storia della Spolato fu Massimo Consoli, che io conobbi la prima volta durante il congresso nazionale della Arci Gay del 90. Quindi Massimo Consoli l'aveva conosciuta la Spolato. Esatto, io penso che sia stato lui a parlarmene, perché Massimo Consoli era uno, a me non ci piaceva, però comunque era uno dei primissimi. Era uno dei primissimi, prima anche di Pezzana, perché ora lui è morto e quindi Pezzana è il primo, ma non è vero, perché Massimo Consoli aveva vissuto anche ad Amsterdam e credo che avesse partecipato alla fondazione del Cook, mi pare si chiamasse. Il Cook è stato fondato nel 49, ma però lui ci aveva partecipato. Esatto. Ma soprattutto lui aveva scritto una cosa che ora non mi ricordo precisamente, ma prima del fuori, mentre stava in Olanda, lui aveva scritto un documento fondativo del movimento, tanto che da quello che io ho studiato sulla Spolato, credo che la Spolato fosse andata in Olanda a cercarlo, proprio sì, perché lui aveva pubblicato una cosa. Quindi insomma è uno dei primissimi, un personaggio sì, sui generis, che ha pubblicato molto, fra l'altro poi è morto. Sì, e quindi io allora non sapevo che ci fosse questo precedente, quando feci l'intervista a Epoca, però il fatto di lavorare a scuola, di comunque aver superato questo passaggio che fu, cioè poteva andare in 1500 modi. Invece Invece andava liscia. è andata bene perché casualmente, secondo me, si sono messe insieme una serie di circostanze. Le cose succedono per caso, quando una serie di circostanze si mettono assieme, di avere una collega come la Sandra, che era l'unica altra con cui ho avuto anche difficoltà di relazione perché lei aveva un rapporto insano con me. Cioè, lei era in qualche maniera sembrava quasi innamorata di me. Mi aveva adottata, mi doveva proteggere, e questa roba era molto pesante tante volte. Tipo, mi portava a vestire, a me comprare mutande. Era sempre molto imbarazzante questa menata della Sandra, perché, no, davvero, perché cioè, non si capiva. Poi lei non è che si vivesse da lesbica, credo avesse una sorella che era lesbica e che aveva una compagna, questo sì. Ma secondo me lei non era neanche lesbica. Era così. Cioè, mi aveva adottata. E quindi mi aveva adottata però con questa modalità, per cui lei voleva che io facessi l'arcigay, perché ne andavo orgogliosa, cioè non lo so, non so cosa si sia, perché dopo io non l'ho mai più vista, mai più sentita, perché a volte per me era pesante, non la sopportavo più, ma lei si è tanto offesa, ed è da lì che poi non l'ho più sentita, perché l'ultimo anno in cui io rimasi a Verona, la scuola dove io lavoravo, quella di Castelnuovo, chiuse, perché cominciarono le riduzioni, quindi era una scuola media, che accorparono la scuola media di Peschiera. Al preside non toccò il posto di preside a Peschiera, lui quindi se ne dovette andare, rimase un altro preside che era quello di Peschiera, mentre come di SGA rimasi io. La Sandra, che era l'unica assistente amministrativa di Castelnuovo, venne assorbita a Peschiera, solo che a Peschiera c'erano altri 5-6 assistenti amministrative. Non è che io potessi fare che io ero la DSGA, ma la Sandra era la mia preferita, quindi io, ma come ho sempre fatto, cioè la trattavo al pari delle altre, questa cosa lei non riuscì a sopportarla, perché anche per lei fu, purtroppo questo è quello che è successo disgregando così la scuola italiana, cioè questa lavorava da ben prima che io arrivassi a Castelnuovo, da una vita in questo paese, che era il suo paese, in queste scolette, che era una media che tutto avremmo avuto 250 alunni, dove lei era pure l'infermiera, perché lei era Croce Rossina, noi in segreteria avevamo tutto un frigorifero con le garze, con i medicinali. Quando lei non c'era pensavano che l'infermiera fossi io. Era questa cosa molto pre, cioè molto Ah, la scuola è paese. di paese, ma proprio capito, eravamo in due in segreteria. Lei secondo me mi amava anche tanto, perché io, cioè, non è che io ero la segretaria e lei l'assistente amministrativa, eravamo in due, quando andai lì eravamo in tre, poi si perse un assistente, rimanemmo io e lei. E quindi io Beh, la. non c'era ancora stata la riforma Berlinguer, quindi Esatto. te non eri ancora di Te, SGA di esatto, te lo segretaria, quindi sei, avevi esatto. altri un altro status proprio. Sì, anche quello vuol dire, Cioè, secondo me. quello che io facevo a differenza di lei è che gli stipendi, che poi non pagavano noi, ma li pagava il provveditorato, però quelli erano una mia incombenza, li firmavo io. Ma questo era, poi non mi sentivo di essere la sua capa, non c'era assolutamente questa relazione. Certo che nel momento in cui poi siamo stati sbattuti in un'altra scuola, la richiesta che mi veniva fatta era di essere la coordinatrice, perché per un periodo ci si chiamò coordinatori amministrativi, era di coordinare tutta la segreteria, di cominciare a dividere i compiti, chi ha la didattica, chi è al magazzino, chi ha questo, chi ha quest'altro. A quel punto per me lei era una delle sette assistenti amministrative, cioè che cazzo facevo? Lei la pigliò malissimo, infatti quello lì fu un anno, uno dei tanti anni in cui io rischiai di perdere il posto, perché quando ti trovi magari una situazione di cambio così e contemporaneamente una situazione politica magari difficoltosa, quell'anno in cui successe questo fu lo stesso anno di Alziamo la Testa. Quindi io mi ritrovai stretta in questa situazione, cioè di essere un bersaglio politico a Verona in Quindi era qua. 95, si è fatto un salto avanti. Sì. Ok, quello lo ripigliamo dopo. Però rimane il fatto che in quella contingenza specifica dell'88-89 invece si creò una situazione che mi permise di affrontare l'essere pubblica a scuola. Quindi nell'88, fino all'88, inizio 89, non ci ricordiamo bene quando, ma volendo si recupera la data, tu entri nella segreteria nazionale del CGIE. Succede una cosa, e questo mi ricordo la data, che è febbraio dell'89. Febbraio dell'89, faccio una piccola parentesi io per la Francesca, forse le utile. Sì. La CGIE nasce nell'82 a Palermo, diventa ufficialmente un'associazione nazionale nell'85 a Bologna. Okay. Quindi non è che ha 100 anni la CGIE. Quindi anche questo discorso gay, lesbiche, anche trans, cioè le trans non ci sono mai piaciute, c'era il MIT, però anche prima l'identità trans non è che prima dell'80 ci fosse, cioè per dire una Valerie che ora si identifica come trans, si identificava come procia, cioè pure porpora. Pure porpora, sì, non, quindi, e anche nell'88 l'arcigay era... Erano le travestite. Esatto. Erano le travestite, okay. E queste non piacevano ai gay incravattati, e però era ancora un misto, cioè quando nacque l'arcigay nazionale... Alle lesbiche ti ha chiesto? Piacevano le travestite alle lesbiche? Le lesbiche, allora, erano meno giudicanti dei gay, perché non si sentivano prese in causa, cioè la travestita in qualche maniera la vivevano peggio i gay, perché temevano di essere così, mm-hmm. Cioè temevano di essere, così, e confusi. Mentre, di essere confusi. Di essere confusi. Mm-hmm. Le lesbiche, allora io non posso dire, non posso sapere di quello che è invece il movimento lesbico femminista, l'approccio che aveva. Quello sui gay c'è anche da dire, insomma, che lì c'è poi lo stacco dell'AIDS, perché... Mentre questa froceria molto visibile nel movimento anni 70 da Mario Mieli è molto, poi la cesura dell'AIDS, sì, fa sì anche che emerga, non vogliamo generalizzare, ma emerga un modello di gay più per bene, perché sì, è proprio la necessità di smarcarsi e anche in qualche maniera di combattere quello che gli stava succedendo. Mm. Che a questo punto io mi ricordo a Verona, non mi ricordo bene l'anno, ma io ero nell'arcigay, credo all'inizio noi avevamo le scritte di Ludwig, dovevano ancora prenderlo Ludwig. Avevamo cominciato l'altra volta a parlare di Ludwig, forse l'avevi già raccontato. Sì, perché era prima. Era che prima. Erano questi che fecero tanti omicidi, eccetera. Sì, cioè, avevi parlato. E quindi c'era questo aspetto, e io credo che questo aspetto aiutò anche il fatto che io fossi benvenuta a livello nazionale, perché nell'arcigay... verso nell'87 mi sembra Grillini divenne presidente dell'arcigay, prima era Ramina ha una storia molto diversa da Grillini, e Ramina compagna lotta continua, esatto, quindi, ma anche proprio molto molto diverso anche come persona, eccetera. Ramina era quello accanto a Francesco Lorusso quando Lorusso, sì, è stato ammazzato dai suoi compagni, sì, era proprio accanto, cioè lui si salvò perché praticamente in via Mascarella ci sono i portici, loro due stavano scappando, l'altro era sull'esterno, lui sull'interno, lui facendo la curva finì dietro la colonna, pigliarono la colonna, lui si salvò, mentre lo russo lo pigliarono e ammazzarono. Quindi c'è uno che viene da lì, tra l'altro lui non era manco uno studente, lui era uno che proprio si era un po', aveva lavorato, aveva fatto l'operaio. Cioè, poi anche se pigliò il diploma, ma da sé, veniva da una famiglia povera, lui manco ha fatto l'università, quindi era un po' una situazione diversa. Grillini fece un po' questa operazione, e quindi in un momento in cui venivano criminalizzati i gay, in quel momento lì, attraverso l'AIDS fu uno strumento per criminalizzarli, non è che fu un caso, no? Che passò come la malattia dei gay, cioè non gli venne proprio a fagiolo, non gli pareva vero. Con le lesbiche era diverso, cioè si trattava, cioè, di dire guardate che sono i comportamenti, tanto che ci fu un periodo in cui anche alle lesbiche si rifiutarono di prelevare sangue. Le lesbiche erano il gruppo meno a rischio come comportamenti. Certo. Anche se dopo anche lì c'è tutto un altro discorso, si fece anche un'indagine, non è che sono immuni dall'AIDS le lesbiche, però era Dipende da quel che indubbiamente. fai, dipende da quel che fai. Esatto, Però rischi meno, cioè, dipende, senza andare sulle esatto, statistiche, però no? Nel senso, una lesbica può Giustamente. andare a letto con un Eh uomo, rispetto, cioè, può certo, succedere oppure, mille cose nella vita. chiaro, però è più Esatto. improbabile, può anche farsi una trasfusione, ce cioè, lo Però sappiamo. non Però esiste a esatto. tutt'oggi nessun caso di passaggio da donna a donna, è questo. E Quindi. comunque, cioè, con questi dati, si rifiutavano di far donare il sangue alle lesbiche. Perché non ci si era ancora arrivati al fatto che fossero i comportamenti, erano le categorie, Cioè, lo lì si parlava di dicevamo noi, categorie a che erano i rischio. comportamenti. Quindi, al di là dell'AIDS, ma dare una lettura, cioè farti vedere come un gruppo complesso, non come un gruppo tutti a battere, che sono quelli giardinetti, quelli che si passano all'AIDS. Una lesbica non gli pareva vero a Grillini, secondo me, di poter spendere questa cosa. E la spesero, io questo lo capii, perché era anche la mia battaglia, nel senso politicamente. Dopodiché, ti dicevo prima, vedevo da un lato questo e poi vedevo invece il disagio lesbico, che era quello da cui io venivo, quello che mi apparteneva in maniera più diretta. E quindi sì, io ero, mi sono data disponibile, è vero, l'avevo capito, mi sono data disponibile a fare la bella figurina per loro. Perché in cambio io pensavo di ottenere una visibilità attraverso la mia persona, perché non ne vedevo altro, non che ritenessi di essere la più adatta, però io avevo fatto quel passaggio, quindi ero l'unica su cui io potevo agire, cioè ero spendibile, questo lo pensai io sono spendibile per dare una visibilità positiva alle lesbiche e di costruire il personaggio, la lesbica felice, infatti vedevo l'altro giorno cos'è che ho visto. Che avevo recuperato una foto mia del Pride del 94, mi feci fare una maglietta da Gianni dove mi ero fatta scrivere felice di essere lesbica, perché quello fu anche la fine poi, no, di quel pezzo di visibilità. Perché io ho cercato fin da quel momento, da subito, di dire, avevo capito che a epoca ero piaciuta, ma soprattutto che ero stata utile. Cioè, c'era un numero di telefono a cui molte potevano telefonare. Era partito il gruppo di Verona. La cosa che facevamo, ci vedevamo tutti i giovedì, una delle prime cose fu cercare di contattare qualcuno d'altra parte d'Italia. Ma esiste qualcosa? Allora ci fu una che arrivò con la bollettina del CLI, che si chiamava ancora bollettino, dire, ah, io ho questo abbonamento, allora scrivi al bollettino del CLI, noi siamo un gruppo di lesbiche di Verona, siamo andate al Cassero. Perché c'era una, abbiamo scoperto, c'era una lesbica che era al centro di documentazione del Cassero. Ci si presentò, non ci fece neanche, non ci ricevette neanche perché ci aveva da fare. Mi ricordo che eravamo andati in due macchine, perché ci si muoveva così. Addirittura. Sì, si facevano le spedizioni e si andava. E poverine, eravamo proprio le montanare che arrivavano, non ci capiva nessuno. Cioè, questo. Cioè, subito prima di epoca, in quel periodo, nell'88, si andò, mi ricordo, anche a trovare la Sandra De Perini a Mestre, perché abbiamo sentito dire che questa Sandra De Perini è una famosa, scoprimo che c'erano i separatisti, allora anche lì noi vogliamo essere separatiste, no? Quell'altra no, non voglio essere separatiste, poi noi non vogliamo chiamarci lesbiche. Allora, e io stavo sempre a dare ragione a tutte sostanzialmente, perché quel mio obiettivo era tenere insieme tutta questa baraldà, perché l'unica era tenerla insieme, non vedevo altre strade. Sono andata a trovare Sandra De Perini che ci ricevette, ci mise la seduta, mi ricordo questa stanza luminosissima, sembrava una biblioteca con tantissimi libri e noi siamo tutte là, oh, cioè, tutte timorose, tutte intimorite. Ci fece un monte di discorsi. Non capimmo un cazzo, però pensavo, vabbè, c'è qualcosa. S'andò a Milano in discoteca, che mi ricordo, io cominciai anche a entrare in crisi con Ornella in quel periodo, subito dopo il Nicaragua, però forse ne ho parlato l'altra volta. perché quando sì, ce l'hanno già parlato, sì, vero? E quindi io a quel punto ero anche in questa situazione e mi ricordo fu la sera la storia con Ornella, c'ho scritto infatti sì, nella 13. L'avevamo mi hai parlato e infatti fu una sera che si decise di andare anche a Milano, perché a Milano c'era Cicip Cicciop che faceva da mangiare. Cicip Cicciop. Sì. Cicciop, vedi, io ricordo, Cicip Cicciop. E poi c'era il Sottomarino Giallo, che era una discoteca che faceva solo per donne. Quindi si parte, anche lì le solite due macchinate, che poi io ero la più vecchia, perché a quel punto mi si era rigirato così, mediamente avevano tutte 10 anni meno di me. Che fu la sera in cui mi mise con la Francesca Vaini. E si arrivò, ma noi alle 9 si era già lì. E si arrivò e ci disse: non è ancora aperto il Sottomarino Giallo, alle 9 la discoteca non apre. E quindi allora si va quell'altro che era subito lì a mangiare qualcosa. Di quello ho uno scarso ricordo perché ci interessava poco, non vedevamo l'ora di andare in discoteca. Hanno detto che apriva alle 10, quindi sarà lì alle 10, pronti, siamo qua. E mi ricordo che c'erano state 5-6 donne di sotto, si andava sotto, era ancora una di quelle discoteche un po' anni 70, con quel soffitto basso, fatto sotto nei piani seminterrati. C'era sta scala che scendeva, poi c'era una pista, anche due piste, e lì noi si scende e ci saranno state, boh, se c'erano 7-8 donne. C'era ancora la musica molto soffusa, perché stavano aprendo allora, e non mi ricordo chi, una di noi, proprio a voce alta, quindi anche quelle poche ci guardarono tutte malissimo, fa: quante donne! Cioè, urlando così. Vabbè, ci si vergognò un po' perché ci sono cose che tutti avevano sentito, tutti si sono girati a vedere sto schiappo di disgraziato venivano da Verona e questo fu il nostro... Erano già esaltate così. Quante donne, mamma mia! Ma sono state 10 se c'erano, ma noi non si era mai visto una discoteca solo di donne e quindi non ci parve vera questa grossa scoperta. Comunque questo era comunque quel mondo di lesbiche di cui non si parlava, che non esistevano socialmente. I gay avevano cominciato ad esistere, ma noi non si esisteva proprio, noi siamo ancora lì, quante donne. E quindi io mi sentivo di dover tenere un po' insieme questi due mondi, da un lato perché politicamente per me era una scelta, a prescindere dal mio essere lesbica. Cioè, questa cosa dell'AIDS proprio la trovavo scandalosa, un'ingiustizia che gridava vendetta. E quindi, cioè, per me era il posto, quella battaglia dove chiunque avrebbe dovuto essere in quel momento, a prescindere dall'identità. E l'altra parte si combinava perfettamente, perché da un lato il movimento gay aveva bisogno di difendersi, non col movimento, ma proprio di difendere le persone fisiche, fare in modo che almeno fin dove si potesse arrivare non nascondessero questi morti. Cioè, questi morti, poi è ritornato il discorso del Covid, questi erano morti che nessuno vestiva, non volevano toccarli, li seppellivano avvolti nel lenzuolo, come è successo poi col Covid, e queste cose si sapevano. E quindi, e dall'altra parte, però c'era anche questa tradizione di gioia del movimento gay che non apparteneva, per quanto ne sapevo io, alla mia storia e al vissuto lesbico. E mi ricordo che difatti una delle parole che si scrisse nel primo volantino dell'Arcigay Donna era scritto anche nel programma politico Sollazzo, che per noi rappresentava un po' quella cosa. Per cui ecco, si combinarono un po' tutto questo. Quindi, anche se io poi non sono mai stata una che ha scritto, non ho mai fatto teoria, eccetera, ma io ce l'avevo la teoria, non è che non ce l'avessi. Era questa roba qua, che non avevo neanche la capacità di esprimere, perché era anche troppo per me, era troppo per una persona sola, che doveva anche farle le cose. Quindi a volte pensavo, ma io forse dovrei fermarmi, magari anche scriverle queste cose. Poi pensavo, ma come faccio a farle se le devo scrivere? Cioè, cosa faccio? Le scrivo, le faccio. E quindi alla fine non ho mai scritto un cazzo. Cioè, a volte ho scribacchiato qualcosa quando magari mi chiedevano qualcosa, però Ma e qualcosa di senti, questa teoria, organico. se tu dovessi appunto così sintetizzarla in maniera più organica, in che cosa... Ma allora, anche lì io poi viaggiavo almeno su tre percorsi. Un percorso era un percorso teorico che comunque in qualche maniera io non avevo competenze tipo teorico, di tipo filosofico, eccetera, però in qualche maniera anche sì, ma che non avevo un cazzo a che fare con il movimento lesbico sostanzialmente. E quindi per me c'era costantemente tutto questo aspetto di rivoluzionare le convenzioni e di dare un senso, cioè di capire che non conoscevo nessuno, non avevo neanche letto nessuno. Quando provavo a leggere qualcosa, ho provato a leggerlo dopo, ma senza avere neanche il tempo di approfondirlo. Quindi, che ne so, io ero anche abbastanza confusa all'epoca perché tutta la parte di Foucault, eccetera, era quella del 77. E il 77 però io c'ero arrivata come una, ne abbiamo parlato prima, ma comunque il 77 mi ha dato tanti strumenti, mi ha dato tante cose, ma ero una reietta io del 77, perché per me la libertà sessuale era la violenza sessuale. Io avrei dovuto per libertà sessuale andare con gli uomini, senza, quello mi veniva richiesto, almeno così io leggevo. Quindi anche tutte le teorie, eccetera, della sessualità è così. Lo stesso approccio freudiano per me fu violento, e quello ne ho parlato l'altra volta. Cioè, io la psicoterapia fatta dagli uomini me la sono dovuta assorbire per sempre, anche in maniera di subirci pure violenza. Quindi tutto quell'aspetto io non ero in grado di affrontare e di da sola, perché poi il mio problema è che ero da sola, quindi tutto questo aspetto teorico io non ero in grado di affrontarlo, di scriverlo. L'altra parte era l'aspetto politico, ma anche l'aspetto politico aveva, secondo me, la difficoltà era questo: un conto era l'aspetto politico, un altro conto era l'aspetto strategico. E io capii di me una cosa molto semplice, che anche se io tendenzialmente, per come ero fatta, sarei stata più portata ad approfondire l'aspetto politico-teorico, in realtà però non sarei stata in grado, non avevo gli strumenti, mentre ero più adatta e avevo più strumenti ad affrontare l'aspetto strategico. Quindi la mia politica nell'arcigay fu una politica di tipo strategico, era tutta una strategia. E poi ho continuato a fare politica in maniera strategica. La strategia, per esempio, tornava perfettamente con quello che dicevo prima di rappresentazione. Io rappresentavo delle parti, ma era una strategia politica, non era una falsità da parte mia. E tutto ciò, in realtà, mi rese in grado, per esempio, di rapportarmi con personaggi come Grillini, che erano personaggi che facevano politica pragmatica. Io la comprendevo il pragmatismo della politica, non era quello che io volevo fare, perché io non avevo gli stessi obiettivi loro. Loro maschi avevano tutti, quelli che ho conosciuto in quel periodo, a livello nazionale, avevano tutti degli obiettivi molto personali da maschi. Cioè era il peggio che espresse il movimento gay. Secondo me, in quel periodo, quello che aveva la predominanza dell'arcigay. Grillini era un pezzo meglio, ma gli altri erano Dall'Orto, Utter, Silvestri, tutta gente che ha cercato tutta la vita di non andare a lavorare, non ha mai lavorato un giorno in vita sua, non ha mai timbrato il cartellino, poi si trovavano a 60 anni a piangere il morto perché il movimento li deve mantenere. Quindi io quella gente proprio non la potevo sopportare. Quindi è ovvio che nel momento in cui io ho cominciato a far parte dell'arcigay, venivo da un circolo locale. I gay che io conoscevo era tutt'altro tipo di gente. Quindi, so, Roberto arrivò dopo di me, per dire, Gianni dopo ancora, ma lo stesso Lucio con cui io facevo politica era altra gente che aveva altre storie e che non ha mai usato l'arcigay. L'ha fatto onestamente per far politica da gay, non ha mai avuto pretese di... Quindi anche il circolo locale a me mi sostenne sempre, perché nessuno di loro aveva mire al riviste di dire vado al nazionale, dice no, vai tu al nazionale, dai, che sei una donna, così fai anche l'interesse di Verona, perché poi il discorso era quello, dove l'interesse di Verona non era l'interesse di Tizio, Caio Sempronio. Riusciamo ad avere una sede, riusciamo a mantenere i rapporti con l'ARCI, siamo più forti, abbiamo più visibilità. Quello era fare qualcosa per Verona che mi veniva richiesto dal Senti, ma te circo. quanto sei stata presidente, cioè nel siamo nell'80, cioè te sei entrata in Arcigay. Nell'88 la segreteria nazionale. E poi che succede? Cioè quando è che come Allora, un momento in cui cambia tutto, sempre di quell'anno, è, stavo dicendo quello, a febbraio dell'89. A febbraio dell'89 si tiene ad Assisi, no, ad Assisi, a Perugia, un congresso dell'ARCI, congresso nazionale dell'ARCI. L'ARCI era ancora molto pieno di PC e PSI, cioè era collaterale. Quindi anche i soldi venivano dai partiti, in fin dei conti, quindi l'ARCI aveva anche denaro. Era un momento particolare per l'ARCI, era cambiato, io non mi ricordo bene le scadenze. A un certo punto, quando era nato l'Arcigay nell'82, fu anche un momento di nuovi movimenti negli anni 80, in particolare l'ambientalismo, in questo caso l'Arcigay, anche un femminismo più istituzionalizzato, anche delle scelte della sinistra di investire sulla cultura, sullo spettacolo. L'ARCI, che prima era un monolite, si differenziò e divenne ARCI, che era un cappello, proprio in quegli anni, divenne anziché un monolite, un cappello che conteneva una serie di realtà. Quella più grossa in assoluto era ARCI Nova, che era quella che, ora io non so bene Toscana ed Emilia Romagna, perché non vivevo in quelle regioni, ma credo che sia anche quella che ha ereditato le case di popolo, perché ARCI Nova era quella dove finì l'ARCI sostanzialmente. Divenne una federazione. L'ARCI Gay era una delle associazioni federate. Fra l'altro, prima c'era un'unica tessera ARCI, e l'ARCI Gay era esonerata quando nacque dal fare tessere ARCI per un motivo semplice: l'anonimato. Cioè, fare tessere ARCI nel circolo ARCI Gay, noi non potevamo mandare l'elenco dei tesserati all'ARCI. Su questo ci siamo sempre imposti di non farlo, erano nostri. Fra l'altro, l'elenco dei tesserati era una roba che non volevamo lasciare all'ARCI, che ci tenevamo a casa, che non doveva esistere, perché c'erano le schedature, non è che, Certo. cioè, erano le schedature, era il motivo per cui la gente, per esempio, le discoteche non partivano, non potevano funzionare se erano lungo la strada principale, perché la polizia passava e tirava giù le targhe e venivano schedati. Succedeva niente la schedatura, ma il primo omicidio che dicevano in ambiente omosessuale, andavano a vedere te in quella zona e venivano a casa a prenderti, questi gay. Figurati il discorso di avere un elenco di omosessuali dichiarati. No, certo. Difatti furono anche gli anni in cui si sviluppò il concetto di privacy, ma siamo stati i primi in qualche maniera ad affrontarlo, a denunciarlo. Perché non è che non le volessimo dare perché eravamo una società segreta, però l'accusa poteva essere quella, cioè le società segrete sono vietate in Italia. Quindi nel momento in cui io ti voglio dare il mio elenco di tesserati, tu dici allora tu sei una società segreta, sei fuori legge. Quindi era sempre tutto uno stare su questo, cioè non sembra, ma guarda, a metà degli anni Ottanta davvero, mi chiedo ora, eravamo un po' clandestini sostanzialmente. E fatto sta che c'era molto movimento all'interno dell'ARCI. Ci fu questo grossissimo congresso che fecero al Palazzetto dello Sport e mi ricordo che io ero entrata allora in segreteria nazionale dell'ARCI Gay. Grillini, che era, cioè aveva già deciso lui di puntare sul fatto che ci fossero le donne, non che ci fossi io, che ci fossero le donne, gli dava un'immagine diversa. Secondo lui gestire delle donne era più facile, perché lui non ha mai preteso di gestirle, cercava che qualcuno gliele gestisse per lui, no? quindi lui era estremamente favorevole e forzò molto la mano su questo. A Verona, comunque, io avevo fatto un grosso lavoro sia col circolo che con l'Arci, perché comunque noi eravamo molto, lavoravamo molto con l'Arci, in particolare con Passepartout, che era, faceva parte di Arci Nova, era un circolo che faceva scuole di lingue a pochi soldi. Quindi, e facevamo sempre i banchini assieme, perché potevamo fare i banchini, che tanto se qualcuno ti vedeva potevi dire: ah, ma io sono il Passepartout, però era sempre Passepartout e Arci Gay. Quindi in realtà facevamo i banchini per distribuire il materiale nostro, non quello di Passepartout. Certo. E fatto sta che era tutto molto organizzato. Io ebbi due deleghe per andare a sto congresso, uno quella dell'Arci Gay, e una anche quella di Verona, perché comunque ero entrata nella direzione provinciale dell'Arci, e quindi di donne eravamo anche poco, e all'Arci pensarono che meglio che ci vada anche delle donne. E quindi partì con queste due deleghe in mano, e mi ricordo, cioè io ero impressionata da questa grandezza. Oltre a me c'erano un po' quelli di Passepartout, il presidente dell'Arci, che era appunto quello della cui figlia si fece fotografare epoca, e poi che c'era Lucio, che era il solito Lucio Tuzza, che era appunto quello che aveva fatto l'intervista con me su epoca. E mi ricordo che noi ci si mise tutti assieme, noi di Verona, molto intimoriti. L'Arci Gay c'aveva tantissima gente, perché sai, i grillini cercava di piazzare più gente possibile, però noi alla fine ci sentivamo molto più sicuri, tranquilli, protetti a stare con quelli di Verona. Fatto sta che però poi lì organizzo una riunione, deve arrivare Franco Grillini da Bologna a dirigere tutto l'ambaradà. Era un congresso, durava tipo 3 giorni. Doveva arrivare il giovedì dice: no, arrivo domani mattina. Noi eravamo già lì. La mattina dopo arriva una telefonata, ci dicono, anzi Ramina secondo me ce lo disse, che Grillini non arriva più perché ha fatto un incidente in autostrada. Lui e il D'Artenuk, che era il suo segretario personale, tipo, disse: non gli successe nulla di che, però si arrovesciò la macchina, finirono in ospedale. Mi ricordo arrivò poi con tutta la testa, non arrivò mai a Perugia, dopo lo vidi, si era tutto grattato la testa, a testa in giù sull'autostrada, vabbè, nulla di che comunque. Comunque non c'è più Grillini. Loro erano al perso con questo Grillini che non c'era più. Già, nel senso, non c'era una presenza gay in quel... Loro stavano là, allora facevano i politici, tutti questi gay che erano arrivati. Mi ricordo ancora che Ramina si fece mettere, funzionava così l'Arci, nella commissione elettorale. Perché dove c'era... come fosse un partito, c'era la commissione elettorale che doveva trattare i posti in direzione nazionale dell'Arci. Quindi Ramina io non lo vidi mai più, perché lui era... questa commissione elettorale pare che lavorasse 24 ore al giorno e più nessuno li vide. Gli altri erano tutti questi gay, molto, tutti più vecchi di me, tipo c'era Beppe Tasca di Bologna, Attilio Merenda di Padova, della gente dopo è anche abbastanza sparita, perché era la vecchia generazione che era arrivata lì. Spesso erano circoli anche un po' inventati, fasulli, tipo Delfini di Genova. Era lui e basta che era andato a Genova a dire: io faccio l'Arci Gay. Dopodiché nessuno sapeva che era gay fuori da lì. Però si presentava alle riunioni nazionali dell'Arci Gay, era in direzione nazionale dell'Arci Gay e aveva il suo momento di gloria lì. E aveva possibilità di conoscere altri gay, di frequentarsi, era questa socialità. Ma senti, ma questo congresso è successo qualcosa di particolare? È successo che intanto io e Lucio ci si parlava tra di noi, era il momento in cui proprio allora era uscita la lettera di Rona Cattin agli italiani, che l'AIDS se la piglia chi se la va a cercare, e che diceva che chi è... fa la sessualità, mi ricordo cosa dicessi, l'ho anche ritrovata recentemente. Sì, c'è online. C'è online perché l'ho trovata per quella ragazza che... Va avanti. Sì. E quindi noi a Verona avevamo la nostra proposta da fare all'Arci Gay, che l'Arci Gay la facesse al congresso dell'Arci, di restituire la lettera, di rimandare al mittente. quindi di fare questa cosa di primo mollare. Dicembre 88 la lettera sull'AIDS di Carlo Donat-Ten. Quando è dicembre? Primo dicembre 88. Ecco, e lì era febbraio, quindi era da poco, stava arrivando. E quindi la nostra proposta veronese era questa, l'Arci Gay e l'Arci, il congresso nazionale dell'Arci, questo era il nostro obiettivo, invita tutti gli italiani e le italiane a rispedire al mittente questa lettera, non riceverla perché è una lettera, vabbè, se ne ha fatti tutti i nostri discorsi. Si comincia a parlare con gli altri, tutti sì che bello, però bisogna farla sta cosa. Però nessuno piglia mai l'iniziativa. Beppe Ramina, che ci pareva il più papabile, e non si trova più perché nei cosi elettorali, e quindi io e Lucio si va dai nostri amici veronesi. Già, come possiamo fare? Mi ricordo che era presidente dell'Arci Serrin, che era un deputato PC di vecchia guardia, brava persona. Si va a parlare con Serri. Sì, andate, siamo andati noi, io e Lucio. Serri fa, sì, no, ma avete ragione, però sai come fanno loro. No, guarda, io sono d'accordo, io lo sottoscrivo, magari un comunicato stampa dell'Arci. Fatelo voi, lì c'è l'ufficio stampa, ma ci ritrovò io e Lucio e i due veronesi con sta cosa, di era quella, ma ci hanno detto di fare, nessuno faceva nulla. Allora si farà il comunicato stampa, ma che comunicato stampa facciamo? Si dice, si fa una conferenza stampa all'interno e si fa venire Serri, che è il presidente dell'Arci, lo si fa dire a lui. E così si fece. Allora si va e si dice a quell'altri, no? Tutti bravi, ma nessuno voleva venire alla conferenza stampa. Perché? Perché non erano visibili in realtà. Era un monte di gente, ma non visibile. Ognuno aveva un motivo, era terrorizzato ad andare sul giornale. E Lucio non aveva questo, ma lui non si sentiva tanto in grado di parlare. Quindi alla fine mi toccò a me. La conferenza stampa si fece io e Serri di questa cosa che, vabbè, uscì un po' meno questo. Nel frattempo Beppe Ramina tramava nelle retrovie perché doveva esserci il congresso, cioè scusa, la nomina della direzione nazionale dell'Arci, che a sua volta avrebbe eletto la segreteria nazionale dell'Arci. Quindi ogni tanto Ramina viene, dice no, allora abbiamo 20 posti in direzione nazionale, via, allora vengo da me, anche tu, sì, anche tu. Dopo due ore dice, no, scusate, ho sbagliato, non 20 posti, su 10 posti. E allora, vabbè, allora taglia un po' di nomi, finché calano sempre sti cazzo i posti. Calano e comincia a diventare 4-5. A questo punto io non li vado più tanto bene, perché per andare nella direzione, andare a conferenza stampa, no, ci ha mandato me. Alla direzione nazionale dell'Arci ci voleva andare tutti, a fare il che poi? Andare, farsi il viaggetto spesato a Roma, immagino io, e spendersi un po' sul locale. Ma lo sa che io ho detto di sì, che ero disponibile, però prima non mi chiedi se sei disponibile e dopo dipende. Perché era, no, perché è importante che ci sia una donna, sai tutti quei bei discorsi, se sia importante, quindi dico di sì. Ma lo sa che cala sto cazzo di numero, a un certo punto sono tre. Questi tre. Allora, io già avevo litigato mezzo, uno era per Grillini, ovviamente, e poi altri due se l'erano già spartiti. Uno era Attilio Merenda, Ramina no, non è mai stato interessato a sta cosa, devo essere sincera, cioè non è mai stato un arrivino. E il mio nome già non andava bene, ma cioè io, e qual era il motivo per cui io non andavo più bene? Ah, perché? Allora, se poi c'è da parlare di AIDS, che è questo il nostro problema principale ora, tu sei una donna, te che ne vuoi sapere? Io proprio mi piace girare i coglioni, mi incazzai, cioè mi dite questo? E che c'era mezz'ora fa la conferenza stampa a parlare di AIDS? Insomma, mi impuntai, alla fine si rimase in due, e io dissi che in due la seconda dovevo essere io, con Lucio che mi sostenne, e bene o male a quel punto preteso di fare un'assemblea sul momento di tutti quelli dell'Arci Gay. Li convocai tutti, gli feci una cappa tanto a tutti, e alla fine ci furono i vecchi che credo mi abbiano odiato. Infatti i vecchi mi hanno odiato sempre, poi i vari Silvestri, tutta quella gente. Beh, Silvestri non siamo più giovani di te. Ma i vecchi dell'Arci Gay, cioè io all'Arci Gay ci sono arrivata a più di 30 anni. Sì, vabbè. Quindi andò così, non solo. A quel punto io mi ero iscritta a parlare con Arci Gay Donna, perché volevo parlare di quello. Dico, pensavo che per tutto il resto non c'è Grillini. Dico, ma allora chi parla di voi e chi non parla? Insomma, niente, dovevano parlare tutti, nessuno si iscrisse. Alla fine parlarci gay parla io. Cioè, che cazzo devo fare? Che va... non c'è un intervento per la CGAI? Cioè, abbiamo fatto tutto sto casino per la campagna da rispedire la lettera a Donna Catè, poi io vado là, bella come una scema, parlo solo delle lesbiche. E no, a sto punto mi assunsi tutte e due le parti, dissi ora parlo come arcigay e poi dico ora parlo come arcigay donna. Andò così. Ovviamente il risultato finale di questo fu che io però ero ingenua, ingenua, ingenua. Si torna a casa, in tutto ciò, per me non... Ovviamente io a quel punto vado in direzione nazionale dell'Arci, dopo una settimana mi chiama una tipa, tale Andreina, guarda, che credo sia rimasta nell'Arci fino a che non è morta, e mi fa, io sono Andreina Alban, si chiamasse, sono un'impiegata, una funzionaria dell'Arci di Roma, ti chiamo perché tu sei stata eletta nella direzione nazionale dell'Arci, dico sì, lo so. Spengo. Sì, tra la Francesca. Pausa, spengo proprio.